veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento e fosti un imprevisto. Un angelo in un angolo mi strappò un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento. Appena smetterò di domandarmelo, suppongo. Perderti fu facile, fu veloce, arreso al terrore. Che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chiede di te. Ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento. È un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. Inutile e non lo vorrò mai. L'estate è tornata e chiede di te. Ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente. Amore io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento. Questa estate non vuole aspettare. Corro veloce, di ora mi fermo qui. Ti amo amore mio, non pensare a niente. A te ci penso io. Ci penso io.